Noi, come diceva prima mio padre, siamo un'attrezzeria. L'attrezzeria è cos'è che fa? È soddisfa i clienti quando hanno delle esigenze che sul loro interno, la propria attività, non riescono a fare. Ecco, allora noi cosa facciamo? Ci portano il disegno che dell'oggetto, del particolare, può essere che un pezzo solo, e glielo forniamo, per cui qua la lavorazione la facciamo tutta, prendiamo la materia prima e produciamo il particolare che ci viene chiesto. Noi copriamo tutti i settori dell'industria, lavoriamo dall'università come prototipi, campioni, provini, all'industria che produce mai particolari, per cui è vasto il nostro campo, no? Pur essendo fa dei particolari piccoli, però è vasto. Gli esempi ne posso fare tanti, però vuol dire, ecco, faccio un esempio qua, questo qua per dirti, queste qua le matrici che devono essere lavorate per la produzione delle molle, no? Per cui questa è una delle cose, queste qua le matrici per l'estrusione dei profili del policarbonato, queste qua le matrici per la compattatura dei freni, no? Per cui dei freni per le moto, per le macchine a disco. La nostra attività come è un supporto, perché non facciamo produzione e per cui non facendo produzione non siamo terzisti. Il terzista, appunto, lo dice la parola stessa, siamo di supporto all'industria, alle aziende a cui hanno bisogno, perché può essere fare anche un semplice foro, capito, in una flangia, come invece fare anche la flangia stessa completa, come può essere questa. Ecco. Chiaro che vuol dire qui la competenza deve essere tutto campo, perché come uno che suona strumento deve saperne suonare tanti, perché non è che ogni macchina ha la sua caratteristica. Per cui se io uso la fresa non è la rettifica, non è il rosomafilo, non è il tornio, tutte le macchine deve avere la sua conoscenza e le sue procedure, insomma. È come vega da usare tanti software diversi, insomma. No, la domanda è come passa la passione. Nell'azienda di conduzione familiare non è che se passa la passione, se passa l'attività, se passa, no? Perché è quasi un obbligo, no? Perché fa parte della famiglia, allora come noi eravamo più fratelli, quello che aveva sembrava più competenze, ha detto va avanti con l'attività. Questo è nella storia di tutte le aziende di conduzione familiare. Nello specifico l'artigiano, come chiedeva prima proprio lei, perché qua, perché in questo posto? Perché l'artigiano è proprio nell'essere artigiani, che a differenza da chi fa industria, è proprio la volontà, la ricerca di svolgere qualcosa per passione, e per cui anche il posto dove svolge l'attività ha il suo interesse, la sua importanza, perché ti senti a tuo agio nel posto dove sei, come uno va a casa perché si sente bene a propria casa, a studiare, non so, invece. Ecco, per cui l'artigiano vive proprio di quello, ed è quello il valore aggiunto di fare l'artigiano. Ecco. Che è una cosa che un po', come diceva mio padre, va a scomparire, perché si perde queste particolarità, proprio direi, del fare l'artigiano. Per cui questo artigiano è una bella differenza con l'industria, perché noi appunto il nostro concorrente, quello più sleale, è l'industria. Il design sì, oggi chiaramente nello studio, nel prodotto, la fattibilità, la prima cosa che dobbiamo fare è lo studio, proprio il design. Oggi proprio nella parte fondamentale, perché oggi con i software che è il rendering, per cui si deve avere già l'idea di qual è il prodotto finale, oltre a avere, per cui tutta l'ingegnerizzazione che è tutto lo studio, prima è tutto della forma dell'oggetto, no? E qui noi nella parte siamo quelli che dopo eseguono male il prototipo, chiaramente partendo già dal progetto fatto prima, per cui il design è fondamentale, sicuramente per il futuro, però è una cosa che va chiaramente collegata, ma all'inizio è una fase progettuale. Progettuale e di verifica se il mercato può, chiaramente questo progetto può essere interessante, per cui si fa un progetto. E dopo dal progetto si passa all'esecuzione, ma prima tu si fa il progetto. Se prova, se il progetto con i vari strumenti che voi usate, se non so che strumenti voi usate lì a scuola, beh, AutoCAD dopo per la parte invece proprio del design, cosa usate? Perché AutoCAD nel 2D o Inventor, se voi usate il 3D. Poi però cos'è che usate? Photoshop, cos'è che usate per la niente? Anche AutoCAD 3D. Invento, cosa usate? No, Invento no. E per l'impaginazione usiamo InDesign. Sì, beh, siamo ancora voi. Che classe fate voi? Scusa, la quarta? Loro avranno sicuramente è un ruolo importante. Io parlo anche rispetto all'industria, non dell'artigiano, perché noi ovviamente come terzisti, se una parte che non è così importante nello studio, perché noi essendo supporto all'industria.